Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siete sempre in collegamento con la trasmissione canonica del giovedì notte, 451 intersezioni. Stasera avremo il piacere, prima di partire con l'argomento e la puntata che è un'edizione straordinaria e speciale, inedita, di 451 intersezioni, ma entreremo nel merito poi nel corso della puntata di stasera. Abbiamo ovviamente il piacere di poterci collegare telefonicamente, sperando che vada tutto bene, perché coi collegamenti telefonici non siamo proprio dei grandi maestri tecnicamente, speriamo di riuscirci, con Ariele Monti dell'Area Sismica per il concerto assolutamente da non perdere il sabato 9 aprile 2016 alle ore 21 dagli Arditti Quartet al Corso Già San Giacomo in piazza da Montefeltro di Forlì, l'evento dedicato al nostro amico e compagno Pier Antonio Pezzini, scomparso purtroppo 2 anni fa. Adesso noi proviamo a vedere se va tutto bene, perché è sempre un bel punto di domanda. Vediamo se il collegamento parte. Pronto Ariele? Ci sono. Oh, incredibile, è andata. Vabbè, no, perché mi stavo seriamente preoccupando, perché con la molti ascoltatori non hanno questa fortuna, perché veramente qua si tratta quasi di modernariato. Abbiamo delle apparecchiature sui collegamenti telefonici assolutamente imperdibili. Secondo me qualche qualche appassionato, se appena viene qua, secondo me impazzisce. E ovviamente ti ringrazio Ariele di essere presente. No, grazie a te, grazie a voi. Senti anche, credo, in sottofondo una formazione che, insomma, l'anno scorso la senti in sottofondo che sale. Sì. I grandissimi amati dal grande nostro amico Pier Antonio, che gli Erico, insomma, che l'anno scorso sono venuti a riempire il teatro a Forlì, un bellissimo concerto, ce lo ricordiamo. Sì, tu vuoi rimanere giovane, ma sono già 2 anni. Hai ragione, sono già, è vero, l'anno scorso, guarda che ti stai perdendo, no, è impossibile, sto perdendo colpi io. E dunque 2 anni, insomma, sto perdendo colpi, va bene, a posto. Oggi oltretutto è anche una giornata particolare, dunque c'è anche motivo per cui sto perdendo colpi, sì. Comunque va bene. Allora, raccontaci un po', se no parlo sempre io un po' della serata di domani, anche per invitare molti appassionati di musica a Forlì. Beh sì, l'idea è nata qualche tempo fa, perché anche Scodanibe purtroppo si è lasciato prematuramente. Sì. E lui è stata una figura molto importante, sia come musicista, cioè nel senso come strumentista, un virtuoso vero del contrabbasso, ma anche come compositore. Ed è qui che nasce anche la dedica a Pier Antonio, una figura molto impegnata, che comunque non scindeva troppo il discorso artistico da quello politico e sociale. Con Pier Antonio ricordo che si parlò molto di una sua anche opera teatrale che si chiama Il cielo sulla terra, che discutemmo attorno della recensione di Mario Gamba sul fatto che era presente anche Tony Negri all'interno della drammaturgia, insomma sì. Era una figura poliedrica, complessa, ma comunque importante. E lui, fatto appunto Scodanibbi, intendo, che ci ha lasciato prematuramente, non ha portato a termine tutto quello che poteva consegnare alla storia della musica. E dal di qui l'idea di prendere spunto da delle sue partiture per quartetti, quartetto d'archi, di coinvolgere l'Arditti, con cui ha collaborato e ha lavorato lungamente, e cercare di portare Forlì. E questo è. E dunque, chiaramente, ricordiamo l'appuntamento sabato, dunque tra due giorni, in realtà tra un giorno, perché siamo già venerdì 8 aprile, sabato 9 aprile, dunque 2016, perché qui stiamo perdendo anche il conto degli anni, ma sai, il nuovo terzo millennio ti un po' siamo ancora disorientati, noi che siamo grandi, no? Non siamo ben abituati, ci confondiamo, alle ore 21, ecco qui se puoi dare delle spiegazioni soprattutto sul loco, sul luogo. Sì, è all'interno di un complesso museale. L'anno scorso è stato terminato la ristrutturazione di una ex chiesa annessa a questo complesso museale, dopo 20 anni di restauro. Pensate. E è stata adibita, adesso diciamo auditorium forse è una parola grossa, però è una bella struttura, capiente, con un bel palco, ed è in pieno centro Forlì. Rispetto Perfetto. A chi è venuto a vedermi a Ricao, che erano al teatro Diego Fabbri, che è molto più grande, in linea d'aria sono 100 metri, 200 metri. Ecco, dunque molto vicino al teatro, ecco, molto vicino al teatro comunale a Forlì. Sì. Ecco, bisogna ricordare, diciamo, gli appassionati che conoscono, perché insomma gli Arditti Quartet è una formazione più che conosciuta in Italia. Ricordiamo ovviamente anche la puntualità, perché sembra che loro vogliono proprio partire proprio puntuali alle 21, no? Circa. Dunque sì, cercare di arrivare una mezz'oretta l'hanno prima. Chiesto. Mm. Beh, giustamente. Il programma non sarà solo incentrato su Stefano. Su Stefano Scodanibbio, certo. Scusa? No, infatti ho visto già nel programma, ma parla tu, dai, che sei ospite, no, sì, parla, sì, lanciati. Scusa, è un po' d'eco. È un po' di solo quello. Il programma, ci saranno due composizioni per quartetto d'archi di Stefano Scodanibbio. Però avremo anche una di Gheorghi Ligeti, il numero 2, quartetto numero 2, e una di Franco Donatoni, la Souris sans sourire, e in mezzo ci sarà un intervallo, quindi un programma da un'oretta, un'oretta e 10 in tutto. Ecco, infatti sotto, senti, ti ho fatto lo scherzo. C'è Ligeti proprio, però questo qui è il numero uno degli Arditti Quartet. Dunque così abbiamo un richiamo, vedi che mi ero già preparato per farti lo scherzetto. Anche insomma Gheorghi Ligeti è un altro grande che noi anche 451 è passato veramente virtualmente, chiaramente, sulle nostre onde parecchie volte. È un grandissimo compositore, ma come d'altronde sono dei grandi musicisti e anche compositori, nonché interpreti, sì, gli Arditti Quartet, e anche, come dicevi giustamente tu, diciamo vis-à-vis, fuori dalla diretta radio, anche Stefano Scodanibbio, che comunque ha avuto un'importanza insomma notevole. Sì, Stefano, probabilmente la percezione della sua portata, proprio per il fatto che è scomparso troppo presto. Si avrà sempre di più nel corso del tempo. Sono d'accordo, come è successo poi a tantissimi musicisti, sì. E tantissimi, qualcuno purtroppo neanche è stato purtroppo considerato anche dopo la scomparsa, qualcun altro qualche secolo dopo, no, comunque c'è sempre speranza, no? Soprattutto nella possibilità che gli esseri umani migliorino in tutti i sensi, dunque guardiamo in positivo nel futuro, no? Bene, allora guarda, io ti ringrazio tantissimo Ariele. Noi ricordiamo ovviamente anche un'altra cosa importante, che l'Area Sismica, che è un progetto musicale, artistico a 360 gradi, molto vicino poi oltretutto il vostro approccio da tanti anni anche al nostro radiofonico, cioè sì, questa poliedricità, questa voglia comunque di mettersi in discussione, in gioco, di ricercare su tanti linguaggi musicali, espressivi, artistici, che ci accomuna molto, che accomuna noi come 451, voi come Area Sismica. E ricordiamo, perché questo è un concerto, un evento dedicato a Pierantonio Pezzinga, che aveva la nostra stessa attitudine, che purtroppo anche lui veramente in maniera assurda e prematura è scomparso. E anche questo è molto bello, che ogni anno sia voi attraverso un concerto e noi attraverso una puntata speciale che facciamo sempre ogni anno a distanza breve dalla giornata, insomma dall'anniversario della scomparsa, che si mantenga la memoria, che credo che anche lo stesso Pierantonio sarebbe molto felice di questo, perché lui lo faceva regolarmente attraverso la sua trasmissione. Sì, sono d'accordissimo. Benissimo, io ti ringrazio Ariele, ci vedremo ovviamente noi presto, ovviamente a Forlì, sabato 9 aprile, lo ricordiamo ancora, ore 21, evento dedicato a Pierantonio Pezzinga, concerto degli Arditi Quartet, e ovviamente invitiamo tutti gli ascoltatori e gli appassionati a venire a Forlì, che poi è anche bello. Bella grazie, città, sei bello anche tu, grazie. Poi in caso ti presenterò agli ascoltatori la tua presenza, secondo me potresti essere un effetto anche trascinante. Sicuro, va bene Ariele, ti quando ringrazio quando ti becco. Mi dai un sacco di mazzate, benissimo. Ti ringrazio Ariele, un abbraccio grazie. Forte e sempre mantenete sempre la linea rossa dell'Area Sismica, mi raccomando. Grazie mille, un abbraccio a ciao, tutti. Ciao Ariele. Ciao. Benissimo, allora siamo rientrati in diretta, anche se eravamo anche prima in diretta, dunque insomma un gioco un po' di parole, ma abbiamo appena concluso l'intervista appunto a Ariele Monti, che è uno degli organizzatori, ideatori e programmatori culturali e musicali dell'Area Sismica, anche di questo evento degli Arditi Quartet. E velocemente, perché ormai si sono fatte già la mezzanotte, ben 13 minuti, entriamo nel la materia invece speciale, particolare di questa serata straordinaria di 451 intersezioni. Perché straordinaria? Perché la nostra trasmissione è sempre stata sviluppata, intanto ricordiamo per coloro che si fossero messi per la prima e unica volta e forse l'ultima volta in ascolto di 451 intersezioni, che 451 intersezioni fa parte di un network, di un collettivo in cui è presente anche lo spazio di 451 frammenti sonori, che va in onda il mercoledì notte. Ieri notte è proprio andato in onda Max Macchia, che conduce questo spazio dalle 23 all'1 circa di notte, mentre 451 intersezioni va in onda ogni giovedì notte da mezzanotte all'1 e mezza circa. Fa parte del network 451. Se volete avere tutte le informazioni, andate sul nostro blog No Blog, dove troverete le puntate vecchie, passate, presenti e future, con le varie notazioni e i vari i contributi del nostro blog, che è 451frammentisonori.onoblogs.org. Ecco, in questo senso il nostro programma, il nostro contenitore musicale ormai già da molti anni si è sempre concentrato su musiche sperimentali d'avanguardia, musica di ricerca, dunque piuttosto anche ostiche all'ascolto generale, e tendenzialmente abbiamo attraversato vari generi musicali, vari linguaggi, non ci siamo mai chiusi diciamo in un'etichettatura, dunque spaziando dal jazz al free, all'improvvisazione radicale, al rock più sperimentale, al jazz rock, alla contemporanea, anche alla moltissima ovviamente musica elettronica con tutte le sue diramazioni, molte anche cose sviluppate all'interno nei nostri palinsesti legati anche a un certo tipo di dance più elaborata, più sperimentale, per arrivare anche a un certo pop. Però difficilmente abbiamo costruito delle puntate legate diciamo a un pop cantautoriale italiano. Abbiamo fatto qualcosa nel passato legato soprattutto a progetti sperimentali italiani degli anni 70, come gli Aria, tutto il fenomeno legato appunto alle sperimentazioni anni 70, soprattutto connesse al jazz rock o alla contemporanea, all'elettronica. soprattutto l'etichetta Cramps, ma difficilmente abbiamo costruito una trasmissione come quella di stasera. Ma andando velocemente al punto, stasera io ho voluto dedicare questa puntata, perché ci tenevo moltissimo, oltretutto quest'autore era amatissimo anche da Pierantonio Pezzinga, anche perché è stato un poco considerato. Lui è scomparso nel 2012, ma è stato fatto veramente ben poco a livello di media mainstream, ma anche di media legate all'ambito underground, riguardo questo grande poeta, scrittore e intellettuale. Parlo di Roberto Roversi, bolognese, che è stato un pezzo importante della storia del Novecento, impegnato sempre fino all'ultimo dal punto di vista politico, non si è mai distaccato da idee rivoluzionarie e comuniste. D'altronde lui è stato anche partigiano durante la lotta di liberazione in Piemonte tra il 1944 e 1945. È Roberto Roversi, che è scomparso appunto nel 2012 all'età di 89 anni, che ha lavorato soprattutto in un breve periodo, per 3 anni circa, con Lucio Dalla, che ovviamente benché conosciuto a Bologna, sono stati fatti 1000 ricordi, 1000 anniversari, anche giustamente, rispetto a un grande musicista che comunque è stato Dalla soprattutto per una parte della sua carriera. Io personalmente lascerei perdere molto degli ultimi 25 anni dei lavori di Lucio Dalla, ma i primi lavori, soprattutto quelli degli anni 70, quelli un po' più arditi, soprattutto in collaborazione con Roberto Roversi, hanno fatto emergere un Dalla anche più spericolato, sperimentale nel suo modo di sviluppare la sua canzone e il suo linguaggio musicale. In questo senso Roberto Roversi in questi anni lavorò con Lucio Dalla e scrisse proprio i testi di 3 album, la trilogia di Roberto Roversi con Lucio Dalla, che era costituita da 3 album splendidi: Il giorno aveva 5 teste del 1973, Anidride solforosa del 1975 e Automobili del 1976. Partiremo ovviamente con alcuni frammenti di questi brani, di questi testi estremamente sperimentali, dove Roversi raccontava molte cose, ma raccontava anche molto del suo passato, del suo impegno politico. Molti brani ricordano la guerra, la seconda guerra mondiale e la lotta di liberazione, e anche il primo dopoguerra, come ad esempio in Automobili la Mille Miglia o Nuvolari racconta anche quello che stava attraversando l'Italia nel dopoguerra. Ma c'è anche molta riflessione rispetto agli anni 70, quello che stava succedendo in ambito politico e sociale, la crescita dei media, sentiremo in un brano quanto era importante, l'attacco al capitale, al capitalismo, attraverso un brano splendido, divertentissimo, come Borsa Valori, dove gioca proprio sui nomi delle varie società per azioni con nomi assurdi che vengono storpiati da un grande Lucio Dalla, che in questo senso sperimenta sulla parola e anche sulla fonetica e sull'uso appunto della voce. E per partire, perché sennò parliamo veramente troppo stasera, iniziamo subito e apriamo questo percorso, questo omaggio, puntata speciale dedicata a Roberto Roversi, un poeta, un compagno. Partiamo con Il giorno aveva 5 teste e partiamo con un brano E lì, collegato subito dopo con Passato presente, e chiudendo questo trittico di brani con L'operaio Gerolamo. Ecco, E lì racconta il primo brano, proprio una sorta di anche racconto particolare rispetto a un Dalla quasi lo-fi, si sente proprio dei suoni quasi da cantina, quando di una registrazione di bassissima lega. In questo senso è anche molto divertente il modo in cui affronta il brano. In Passato presente si gioca e lavora Roversi su un testo magnifico legato appunto al rapporto umano fra il passato e il presente, e l'ultimo brano è proprio un racconto di tanti operai e migranti che nel dopoguerra in Italia giravano un po' tutta Europa per lavorare e spesso finivano per morire e per non esserci più, e questo racconto anche molto crudo appunto dell'emigrazione, dello sfruttamento nella fabbrica da parte del capitale, non solo italiano ma anche europeo, nel dopoguerra, nei confronti di tanti emigrati italiani. Andiamoci subito ad immergere in questa puntata speciale su Roberto Roversi con questi 3 brani tratti da Il giorno aveva 5 teste. Buon ascolto. Bye. Interrompiamo la trasmissione per comunicare che in questa notte di serenità, di pace e d'amore, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo morto. La cosa è di una eccezionalità insolita, è veramente eccezionale, perché erano 20 anni che in questo nostro bel mondo, nostro, non moriva un uomo e non veniva trovato. Le nostre squadre televisive si sono recati sul posto, nella località del Piemonte, a piede del monte naturalmente, e hanno intervistato il contadino, il pastore, l'operaio, insomma, quell'altro uomo che ha trovato il cadavere. Ci scusiamo in precedenza l'emotività, il fatto eccezionale ha sconvolto il signore. Comunque il nostro inviato, al quale va il nostro ringraziamento per aver sospeso la festa, il Natale, la famiglia, e ancora con la torta in mano recatosi là, ha intervistato questo uomo. Era coperto di rame, coperto di sassi, era coperto di terra. Era coperto di rame, coperto di sassi, era coperto di terra. Era coperto di sassi, coperto di rami, coperto di terra. Era coperto di rame, coperto di sassi, coperto di terra. Gli occhi! Gli occhi. Gli occhi. No, non ho visto gli occhi. Era coperti coi rami, erano neri di terra, erano verdi di boschi. I capelli, i capelli. No, non ho visto i capelli. Rossi di sangue i capelli, polvere e fango i capelli, penne strappate di uccelli. La bocca, la bocca. No, non ho visto la bocca. Era riempita di terra, era coperta di rami, di sassi, con il labbro spaccato. No! La sua bocca taceva. La mano, la mano. Sì, la sua mano viveva. Era coperta di rami e di sassi, era coperta di terra. Ma la sua mano splendeva, bruciava. Sì, la sua mano cantava. La mano stringeva un calcio infangato di un fucile di guerra. Il passato è mio padre che cerca nella tasca una sigaretta. Il passato è mia madre con i capelli neri. Il passato è la mia voglia di crescere in fretta. Il passato una giovane donna ferma davanti una porta. Di lei ormai che cosa mi importa? Il passato di tanti anni fa, alla fine del 49, e il massacro del feudo Fragalà sulle terre del barone Brevilieri, tre braccianti stroncati col fuoco del moschetto in difesa delle proprietà. Sono fatti di ieri? Il passato è la rabbia che si fa tuono, il passato è un fuoco che brucia i pensieri, il passato è un ragazzo che diventa uomo! Il presente. Il presente. Il presente è un aratro che scava dentro il cuore in fretta. Il presente ha tutti questi anni da ricordare. Il presente ha tante porte di galera da contare. Il presente passa e ripassa come un urlo di sirena alla fine di una lunga giornata. Il presente vola. Nessuno può dire se è migliore o peggiore, come molti credono. Perché la libertà è difficile e fa soffrire. Tu dove vai? Con la voce che chiama, di me cosa importa? Il presente è stanze strette e autostrade infinite. Il presente è una macchia di sangue da 50 chilometri. Il presente è un fiume di sole con giovani vite. S'alza il sole sui monti e sono ancora a casa. Cala il sole sull'acqua e mi trovo nella polvere della strada. S'alza il sole sui monti e adesso sono a Torino. Sole sull'acqua, mi trovo solo come un cane in un angolo, dentro una mescita di vino. si alza il sole sui monti e sono arrivato in Germania. Cala il sole sull'acqua e su una baracca disteso al buio con un vecchio maglione addosso e una lampada che non funziona. Si alza il sole sui monti e mi trovo a Nanterre, periferia di Parigi. Cala il sole sull'acqua e sono con gli altri compagni a vegliare, un povero italiano, il mio amico Luigi. S'alza il sole sui monti e sono arrivato a Milano, città dell'abbondanza e dei miracoli e della Madonna. Cala il sole sui monti e non ho nemmeno la forza di guardarmi la mano. S'alza il sole sui monti e mi trovo braccato nella campagna. Cala il sole nell'acqua e se qualche santo mi aiuta mi trovo alla fine in una grotta buttato. Sui monti e sono ferito a morte, ferito al petto e condannato. Povero operaio, povero pastore, povero contadino, salta il sole sui monti e sono morto e sotterrato. Salza il sole sui monti e un altro al posto mio è già arrivato. E siamo rientrati in diretta, assolutamente commovente e suggestiva questa, quest'ultimo brano di Roberto Roversi con queste sirene della fabbrica che richiamano proprio la morte sul lavoro, dunque una critica fortissima che ha sempre portato avanti Roversi anche nei confronti del lavoro salariato, dello sfruttamento legato alla fabbrica. Roberto Roversi, ricordo e ritorniamo un po' a raccontare la storia di questo grande scrittore, poeta, intellettuale del Novecento, bolognese, che appunto iniziò la sua, il suo impegno politico giovanissimo, da ventenne, come partigiano proprio nel Piemonte. Poi successivamente, particolarmente insomma nel 1955, fondò insieme a Francesco Leonetti e al grande Pierpaolo Pasolini la rivista Officina. Poi nel 61 diede vita a un'altra rivista, Rendiconti, dove fu anche editore. Negli anni 60 poi iniziò a lavorare con degli scritti, dei romanzi e delle poesie, per portarsi poi negli anni 70 a incominciare a lavorare, a pensare, a costruire testi e poesie per canzoni. Iniziò anche questa sorta di sodalizio con Lucio Dalla e questo primo album, abbiamo ascoltato queste prime tre tracce da Il giorno aveva cinque teste, poi successivamente nel 75 Anidride Solforolda e Automobili nel 1976, che è un po' di questa trilogia il disco un po' più famoso. Difficilmente questi tre brani che abbiamo adesso appena ascoltato li ricorda ancora, È lì, passato e presente il secondo brano, il terzo L'operaio Gerolamo, sono brani che difficilmente si ascoltano in radio. Qualcosa di questa trilogia si può ascoltare nella famosissima Nuvolari, di automobile oppure il motore del 2000, però generalmente sono tre album che dallo stesso anche Dalla sono stati un po' emarginati nel corso degli anni, invece sono tre album bellissimi, soprattutto i primi due. E in questo senso, ad esempio su Automobile, è giusto anche ricordare che cosa successe con Lucio Dalla, perché in realtà Automobile era un progetto anche teatrale che era stato pensato dallo stesso Roversi, e c'erano anche molti più brani di quelli inseriti poi nel disco, ma brani che erano molto molto marcatamente politicizzati, che alla fine non furono mai editi, e per questo motivo lo stesso Roversi, insomma, si scontrò con Dalla e depositò alla SIAE come, diciamo, autore dei testi sotto uno pseudonimo, cioè Norisso, che era un aristocratico veneto del Settecento, anche provocatoria questa scelta di Roberto Roversi. Roberto Roversi che poi, da questo scontro, da questo dissidio nei confronti di Dalla, ruppe definitivamente con lo stesso Dalla, con cui poi non lavorò praticamente più. E in questo senso fa capire anche la forza e il temperamento di Roberto Roversi, che, anche giusto ricordare, si impegnò politicamente molto anche negli anni 70, vicino al movimento antagonista, fino a diventare co-direttore di Lotta Continua negli anni 70, e continuò anche comunque a mantenere anche nei decenni successivi sempre un interesse rispetto al movimento antagonista in generale, anche se ovviamente passando gli anni cercò sempre di più di fare lavori storiografici, poesie e scritti legati soprattutto alla sua esperienza come partigiano e soprattutto nel periodo riguardo i decenni successivi alla guerra. Ricordiamo anche che lui rimase, diciamo, dopo che smise di lavorare in maniera più costante, più continuativa nell'ambito musicale, teatrale o letterario, continuò fino alla sua morte a gestire una libreria qua a Bologna, la libreria Palma Verde, che insomma rimase il suo punto di riferimento addirittura già dagli anni 50, che gestiva questa libreria, rimase una sorta di sua nicchia, di suo rifugio personale. La cosa che fa molto pensare, appunto, che su Roberto Roversi dopo la morte c'è stato veramente ben poco, pochissimo, che lo ha ricordato come grande pensatore, grande scrittore, grande poeta, e soprattutto qualcuno dice anche per la sua ruvidità e per la sua disaffezione rispetto a inciuci istituzionali, giochini, insomma, di legati a onorificenze varie, premi, e mantenendosi sempre un po' distante, quasi rifugiato dentro un piccolo spazio fuori, insomma, dalle luci, dai riflettori, mantenendo soprattutto una verve polemica e politica molto elevata fino all'anno della sua morte nel 2012, all'età di 89 anni. In questo senso anche questi tre brani raccontano un po' la profondità, la genialità dei testi che Dalla utilizzò appunto per scrivere queste canzoni, in questi tre brani splendidi che abbiamo appena ascoltato, Elì, Passato Presente e L'Operaio Gerolamo. E adesso ascolteremo un altro brano che racconta con grande suggestione e grande tenerezza, seppur racconta la guerra, racconta anche la morte, il brano La Bambina, sempre dal giorno aveva cinque teste, che è un racconto appunto della guerra, di quello che lui ricorda della violenza, ma anche della speranza e dunque anche della vita che può rinascere dopo una cosa talmente tragica e terribile come una guerra, che provoca morte, distruzione e tanti patimenti. Ci andiamo ad ascoltare questo splendido brano per chiudere, diciamo, il disco Il giorno aveva cinque teste, con il brano La Bambina. Poi apriremo il campo al secondo album, Anidride Solforosa, che anche come titolo racconta molto del suo rapporto con la fabbrica, con la produzione, con la industrializzazione connessa allo sfruttamento. Intanto godiamoci questo splendido brano La Bambina. cosa che soffri quella, sai? E se per te non me lo sei. Una colomba segnata di sangue vola dal cuore e cade per terra, e la ragazza con i capelli scuote la polvere della pietra. Poi trascinata dalla memoria corre nei campi di Volterra, rossi covoni e bianco il mare, mentre il giorno divampa in fuoco. Cala la sera, guerrieri combattono, navi ferme fra grida di guerra, ma la sua gola ride a un gabbiano steso sull'acqua per riposare. La gente uccisa, città incendiate, ricordi spenti, dimenticati, splendono solo i giorni beati della vita che dura un mattino. L'inverno è neve, l'estate è sole, l'inverno è neve, l'estate è sole, l'inverno è neve, l'estate è sole, l'inverno è neve, l'estate è sole, l'inverno è neve, l'estate è sole, l'inverno è neve, l'estate è sole, l'inverno è neve, l'estate è sole. Ed eccoci ritornati in diretta, 451 intersezioni, puntata speciale dedicata a Roberto Roversi, un poeta, un compagno. Abbiamo ascoltato l'ultimo brano da Il giorno aveva cinque teste, almeno ovviamente selezionato da noi in questo senso, e entriamo nel secondo album, Anidride solforoso, uscito, pubblicato nel 1975. Anche qui, come Nel giorno aveva cinque teste, le tematiche sociali, la denuncia legata ovviamente allo sfruttamento del proletariato rispetto al potere capitalistico in Italia, e anche il racconto di tante situazioni di disagio, anche ad esempio dal penitenziario femminile, un racconto molto, molto forte, molto toccante rispetto alla carcerazione, al problema della carcerazione, la tematica dei manicomi, la tematica anche della delinquenza minorile causata ovviamente dalle condizioni di disagio sociale, di ristrettezza totale, di abbandono e di ghettizzazione di moltissimi, ad esempio, immigrati meridionali nel nord Italia. Sempre molto attento alle questioni politiche, ovviamente sociali, soprattutto nel periodo degli anni 70, dove lo vedeva anche impegnato dal punto di vista proprio della militanza politica, l'assunzione della responsabilità di essere direttore di un giornale comunque nell'occhio del ciclone tra il 73 e il 75 come Quotidiano Lotta Continua, al di là di tutto quello che poi è successo dopo rispetto a Lotta Continua. Apriremo un'altra parentesi molto molto lunga e impegnativa. E da questo disco, Anidride solforose, che ha lo stesso titolo, insomma, è molto forte, molto d'impatto, è legato proprio ai miasmi, ai fumi, a quello che viene prodotto chimicamente dalla produzione, dalla fabbrica, ci andiamo ad ascoltare un brano divertentissimo, perché oltre ai momenti drammatici, poetici, profondi, emozionanti, umani, fortemente umani, che rappresenta la poesia e i testi di Roberto Roversi, c'è anche l'aspetto ironico, provocatorio, ricco di paradossi e salti nel vuoto e ovviamente contraddizioni giocate ad hoc, e in questo senso ironicamente, prendendo appunto in giro in maniera provocatoria il sistema capitalistico e in particolare il mercato, che ormai è diventato assurdo, assunto soprattutto negli ultimi 15-20 anni, una sorta di dio intoccabile, la borsa valori, questo è il titolo del brano, divertentissimo, dove lo stesso Dallo oltretutto genialmente gioca e riesce a interpretare perfettamente il gioco di parole costruito nel testo da Roberto Roversi, dove collega tutti i nomi più assurdi e impensati, soprattutto collegati insieme di tantissimi società per azioni quotate in borsa, e Dalla poi ci gioca sia sull'aspetto fonetico che sull'aspetto proprio delle parole, e con i suoi deliri vocalisti splendidi che avevano caratterizzato negli anni 60-70. Splendido brano, divertentissimo, ce l'ascolteremo adesso, Borsa Valori, e poi invece un altro brano molto più suggestivo ed emozionante intitolato Merlino e l'ombra, anche questo molto molto bello dal punto di vista proprio poetico, un testo splendido. Poi rientreremo ancora in diretta per presentare ancora un brano da Anidride, anzi altri due brani da Anidride Solforosa, quelli più legati alla storia, al passato, alla storia d'Italia, in questo caso al Risorgimento, per poi addentrarci nel finale verso l'ultimo album della trilogia, cioè Automobili. Intanto entriamo dentro il mondo assurdo che però ci schiavizza, cioè il mercato finanziario, la borsa valori, con il brano appunto di Roberto Roversi, interpretato e ovviamente suonato attraverso le musiche di Lucio Dalla. Buon ascolto. Alimentari, alimenti, meno 5, o 50 così. Butto, hai meno 10, buon ferraresi, monteri, dagna, zuccheri, roba, 45 più. Cementieri, eternit, i tre cementi unici, meno 90, più 30, 11 più. Immobiliare, condotte d'acqua sono 9 più, girardini 79, sanamento 30 più, Coge 18, Certosa 60, i beni stabili a 20 più, a 20 più. I finanziari, Bastogi Agricola Centrale, Gim a 30 meno, General Free, i FIP private, i FIL Invest, i FIL Invest a più 50, Nitel, Fimare, più 1 1/4, Sarom, Smet, Step, Sarom, Smet, Step, Sarom, Smet, Step, chimici, Ani, Brioschi, Erba, Itel, Gas, Perlier, Piret, Romianca, più 2 1/50, la Lepetit, la Lepetit, Lepetit, vengo le Bastoci, compro Commito, Oras, vendo Richard Ginori, compro Button e Sif, Cogito via in un amen, compro Sifa e Pisac, butto la segna Viscosa, prendo Smeriglio e Cire, non ho contanti, vado a riparto fino nel mese di novembre, sarò nel Portogallo, se liqui gas o Enel, dalmine folche fil, stamattina non crescono, se liqui gas o Enel, dalmine folche fil, stamattina non crescono. Capsula dottor, na, capsula dottor, na, le, non ci andrà. We'll be right back. C'era una volta un uomo forte che si chiamava Merlino. Andava in giro nel mondo per giocare con la morte. Ah, la, la, la, la, la, la. Così una sera era arrivato in un paese lontano, dentro un gran mare di vento c'era un castello abbandonato solo nel piano e tutto spento. Paura chiede ridendo, se può aspettare. Alla mattina il sole appare, Merlino vuole partire, apre felice le porte, fa un passo appena, vede su un fiore la sua ombra che si dimena e per la paura muore, muore. Siamo rientrati in diretta, anche questo splendido brano, oltre alla Borsa Valori, ricorda ancora il brano appena ascoltato, Merlino e l'ombra, e sempre da Anidride Solforosa andremo a pescare un mazzo di fiori, dunque un brano splendido anche dal punto di vista musicale, perché comunque Dalla in questi lavori li si è sentiti anche negli arrangiamenti di questi splendidi archi utilizzati in Merlino e l'ombra, ma anche il lavoro jazzistico assurdista della Borsa Valori esprime anche una certa ricercatezza musicale del Dalla di quel periodo. E il brano successivo a Un mazzo di fiori, che adesso ascolteremo tra pochi istanti, è un brano estremamente forte, suggestivo, combattivo, di ricordo, di memoria storica, di fatti lontanissimi attualmente, perché parliamo di un più di un secolo fa, infatti Roversi costruisce questo splendido testo, Le parole incrociate, che racconta proprio della rivolta del 1898 a Milano, la rivolta del pane, che fu praticamente sedata violentemente con morti e feriti da parte del Regio Esercito e in particolare dagli ordini del generale Fiorenzo Bava Beccaris. In quegli anni, ovviamente, eravamo nei primi anni dell'Unità d'Italia e a Milano ci fu un periodo di forte carestia in, diciamo, nel nord Italia, dunque la produzione del grano si abbassò e il governo decise di aumentare il costo e il prezzo del pane da 35 a 60 centesimi, praticamente raddoppiato. In questo senso, ovviamente, le popolazioni, proletari, disoccupati, che poi erano altissimi in quel periodo, le persone, ovviamente, i ceti popolari, si ribellarono, ci fu una rivolta che fu ovviamente anche organizzata, aiutata da parte dell'allora movimento socialista, che sfociò in questi scontri violentissimi dove furono ingaggiati praticamente tutti i corpi dell'esercito regio, per reprimere duramente con morti e feriti appunto la popolazione che si rivoltava. E in questo senso racconta in termini di memoria il potere in questo caso rappresentato dagli agrari, dagli industriali, dal governo, riportato ovviamente nel 1975 in un chiaro riferimento anche al presente e che poi sarà anche il futuro attuale che ci viviamo tutt'oggi. Non ci sono ovviamente situazioni così truculente qua in Italia, ma insomma nel resto del mondo lo vediamo tutti i giorni intorno a noi, quello che sta accadendo anche attraverso non soltanto repressioni nell'ambito interno, ma anche ovviamente devastazioni e guerre nell'ambito esterno. Andiamoci a sentire anche questo aspetto importantissimo anche del lavoro di Roberto Roversi, la ricerca storica, il recupero, la memoria storica di molti moti del passato, dal Risorgimento fino ovviamente agli ultimi anni del Novecento, con questo brano splendido, Le parole incrociate. Intanto ascoltiamoci prima Un mazzo di fiori e poi Le parole incrociate, per chiudere anche il capitolo dedicato a questo album uscito nel 1975. Ovviamente buon ascolto. L'anno del sole più inquieto, quando il cane scappa dalla casa, e un vitello ubriaco sul prato sta uccidendo a cornate i piccioni. Tutti i fiori hanno il cuore gelato, un fiume striscia lento sul petto, con il pelo di un lupo di monte, e racconta le sue prime storie al cielo di vino bollito. Questo fiume di ghiaccio e di penne strappa lampi di fuoco dai campi e ha un ombrello aperto sull'acqua. Donna e albero sono invecchiati, liberate la sedia e la porta, questa è l'ora e nessuno rimane, rimane la pianura e quell'erba che gioca. La donna inforca la bicicletta e fra i canneti e l'argine alto, è sul fiume e si toglie le scarpe, schiuma l'acqua, la vita fredda. Donna e albero sono invecchiati, la miseria e la fame più nera, qui sul fiume si toglie le scarpe, stringe in mano sei fiori strappati. Tutti. Oh. passa un'onda, la donna si butta, corre l'onda, la donna è annegata, spezza l'onda.